Basic Italian, 7th edition. Chapter 3. A. Dictation. You will hear a list of 10 words. Each word will be repeated. After the repetition, write the word down in your manual. After all the words have been done in this manner, the entire list will be read through once. Let's start. 1. Ghiaccio. Ghiaccio. 2. Schiaffo. Schiaffo. 3. Chicco. Chicco. 4. Aglio. Aglio. 5. Scivola. Scivola. 6. Giunchiglia. Giunchiglia. 7. Ignoto. Ignoto. 8. Gnocchi. Gnocchi. 9. Cicca. Cicca. 10. Ghiaia. Ghiaia. 1. Ghiaccio. 2. Schiaffo. 3. Chicco. 4. Aglio. 5. Scivola. 6. Giunchiglia. 7. Ignoto. 8. Gnocchi. 9. Cicca. 10. Ghiaia. B. Answer the question, che cos'è, by stating what the item in the prompt in your manual is. Follow the model. Listen. Che cos'è? È un pesce. Let's start. 1. Che cos'è? È un libro nuovo. 2. Che cos'è? È un'insalata verde. 3. Che cos'è? È un gettone. 4. Che cos'è? È un dialogo. 5. Che cos'è? È un esercizio nuovo. 6. Che cos'è? È una rivista italiana. 7. Che cos'è? È uno stereo americano. 8. Che cos'è? È una lettera dalla zia. 9. Che cos'è? È una vecchia fotografia. 10. Che cos'è? è un manuale per il laboratorio. 6. You are in Italy and keep having the same problem everywhere. When clerks and waiters ask you what you want, they do so by insinuating what you should get. Be firm. Tell them exactly how many of each item you want. Listen to the model first. Un caffè e due gelati? No, un gelato e due caffè, per favore. Now it's your turn. 1. Due insalate e una minestra? 2 minestre e un'insalata, per favore. 2. Due pizze e una Coca-Cola? No, 2 Coca-Cola e una pizza, per favore. 3. Due caffè espressi e un cappuccino? No, 2 cappuccini e un caffè espresso, per favore. 4. Due pesci e una verdura? No, 2 verdure e un pesce, per favore. 5. Due gettoni e una penna? No, 2 penne e un gettone, per favore. 6. Due camicie e una cravatta? No, 2 cravatte e una camicia, per favore. 7. Due dizionari e un quaderno? No, 2 quaderni e un dizionario, per favore. 8. Due giacche e una camicia? No, 2 camicie e una giacca, per favore. 9. Due felpe e una maglietta? No, 2 magliette e una felpa, per favore. 10. Due gonne e una sciarpa? No, 2 sciarpe e una gonna, per favore. 10. You will now be asked if Giovanni has certain things at his house. Answer by saying that at his house there is only one of each item. Look at the model in your manual and listen. Ci sono 2 sofà a casa di Giovanni? No, c'è solo un sofà. Now it's your turn. 1. Ci sono 2 telefoni? 2. No, c'è solo un telefono. 2. Ci sono 2 televisori? No, c'è solo un televisore. 3. Ci sono 2 radio? No, c'è solo una radio. 4. Ci sono 2 tavole? No, c'è solo una tavola. 5. Ci sono 2 automobili? No, c'è solo un'automobile. 6. Ci sono due stereo? No, c'è solo uno stereo. 7. Ci sono due motociclette? No, c'è solo una motocicletta. 8. Ci sono due tavoli? No, c'è solo un tavolo. 9. Ci sono due compagni di stanza? No, c'è solo un compagno di stanza. 10. Ci sono due fotografie di Arnold Schwarzenegger? No, c'è solo una fotografia di Arnold Schwarzenegger. 1. You are taking your young Italian cousin through your local zoo. He's so excited, he thinks he's seeing herds of each animal, but there's only one of each species. Correct him. Follow the model. Ci sono 100 tigri! Ma no, non c'è che una tigre! Before beginning, glance at the mini vocabulary in your manual. 1. Ci sono 100 coccodrilli! 2. Ci sono 100 elefanti. Ma no, non c'è che un elefante. 3. Ci sono 100 giraffe. Ma no, non c'è che una giraffa. 4. Ci sono 100 leoni. Ma no, non c'è che un leone. 5. Ci sono 100 leopardi. Ma no, non c'è che un leopardo. 6. Ci sono 100 orsi. Ma no, non c'è che un orso. 7. Ci sono 100 pantere. Ma no, non c'è che una pantera. 8. Ci sono 100 tigri. Ma no, non c'è che una tigre. 9. Ci sono 100 rinoceronti. Ma no, non c'è che un rinoceronte. 10. Ci sono 100 zebre. Ma no, non c'è che una zebra. F. Answer the next set of questions in the affirmative and add the adverb molto. Follow the model and listen. Le fotografie sono brutte? Sì, sono molto brutte. Now it's your turn. 1. I bambini sono cattivi? Sì, sono molto cattivi. 2. I tavoli sono piccoli? Sì, sono molto piccoli. 3. Gli esempi sono buoni? Sì, sono molto buoni. 4. Le ragazze sono giovani? Sì, sono molto giovani. 5. Le automobili americane sono grandi? Sì, sono molto grandi. 6. Le pizze sono buone? Sì, sono molto buone. 7. I ragazzi sono bravi? Sì, sono molto bravi. 8. I signori Anzo sono vecchi? Sì, sono molto vecchi. 9. Gli esercizi sono lunghi? Sì, sono molto lunghi. 10. La lezione è interessante? Sì, è molto interessante. G. Answer the questions by giving the reasons provided in your manual. Look at the model in your manual and listen. Perché scrive così bene, Gina? Scrive bene perché studia molto. Let's start. 1. Perché parla così bene l'inglese, Federico? Parla bene l'inglese perché legge i giornali americani. 2. Perché pronuncia così bene l'italiano, James? Pronuncia bene l'italiano perché ripete le parole nuove. 3. Perché non mangia Matteo? Non mangia perché non ha fame. 4. Perché non mangia al ristorante Angelica? Non mangia al ristorante perché ha poco denaro. 5. Perché mangia solo verdura, Fulvia? Mangia solo verdura perché è vegetariana. 6. Perché non ascolta la mamma? Non ascolta perché è stanca. 7. Perché non impara Andrea? Non impara perché non studia. 8. Perché non prende la giacca, Luca? Non prende la giacca perché non ha freddo. 9. Perché ripete sempre le frasi, Giulia? Ripete sempre le frasi perché è responsabile e diligente. 10. Perché non studia Andrea? Non studia perché è pigro e irresponsabile. 8. Ask the speaker to elaborate on each statement. Listen as the model in your manual is done for you. La mensa universitaria è popolare. Perché è popolare la mensa universitaria? Now, let's start. 1. Non abbiamo denaro. Perché non avete denaro? 2. Non ho fame. Perché non hai fame? 3. La minestra non è buona. Perché non è buona la minestra? 4. Il film non è interessante. Perché non è interessante il film? 5. Il dizionario non è buono. Perché non è buono il dizionario? 6. Carla non mangia carne. Perché non mangia carne, Carla? 7. Federico è irresponsabile. Perché è responsabile, Federico? 8. Claudia legge i giornali americani. Perché legge i giornali americani, Claudia? 9. Paola telefona Giovanni. Perché telefona Giovanni, Paola? 10. Andrea non paga. Perché non paga Andrea? 11. Sandro non prende appunti. Perché non prende appunti, Sandro? 12. Maria non parla con Giuseppe. Perché non parla con Giuseppe, Maria? 1. You will now be asked a number of questions. Deny what they suggest and declare that the opposite is true. Listen first to the model. Matteo è pigro? No, al contrario, è dinamico. Now it's your turn. 1. Andrea è responsabile? No, al contrario, è irresponsabile. 2. Anna è stupida? No, al contrario, è intelligente. 3. Guido è generoso? No, al contrario, è egoista. 4. Papà è moderno? No, al contrario, è antiquato. 5. Carlo è sincero? No, al contrario, è falso. 6. Maurizio è idealista? No, al contrario, è realista. 7. Chiara è ottimista? No, al contrario, è pessimista. 8. Aldo è disonesto? No, al contrario, è onesto. 9. Laura è organizzata? No, al contrario, è disorganizzata. 10. È bruna, Raffaella? No, al contrario, è bionda. J. You are Nicola Fassi, a friend of Carlo Sordi. You decide to call Carlo at home to see if you can borrow his philosophy notes because you can't find yours. To your utter despair, his grandmother, Ada Sordi, who is stone deaf, answers the phone. See if you can get your message across. Responses may vary. The confirmation will give what might be the most probable reaction in this situation. See how close your answers come to those of the speaker. Before beginning, review the vocabulary list in your manual. Ready? Let's start. Pronto? Pronto, signora, sono Nicola Fassi. Pronto? Pronto? Chi parla? Parla Nicola, Nicola Fassi. Chi? Che cosa? Nicola, l'amico di Carlo. Come? Il professor Carli? No, Nicola, l'amico di Carlo. Ah, Nicola, come stai? Bene, grazie. E lei? Ah, bene, bene. Cosa c'è di nuovo? Non trovo gli appunti per il corso di filosofia. Per il corso di psicologia? No, il corso di filosofia. Peccato. C'è Carlo? No, Carlo non c'è. È in biblioteca. Desidero lasciare un messaggio. Desideri un passaggio? No, lasciare un messaggio. Quando torna Carlo? Carlo torna dopo la lezione di economia. Bene, allora telefono più tardi. Come? Telefono più tardi. Bene, bene, arrivederci. Arrivederla e grazie.